Nell'anno della morte del re Ozia, vidi il Signore seduto su un trono alto ed elevato, ed i suoi lembi riempivano il tempio. Dei serafini stavano sopra di lui. Ognuno di essi aveva 6 ali. Con 2 si coprivano la faccia, con 2 si coprivano i piedi e con 2 volavano. L'uno all'altro gridavano dicendo: Santo, santo, santo è il Signore degli eserciti. Tutta la terra è piena della sua gloria. Gli stipiti delle soglie tremavano per la voce di quelli che gridavano, mentre il tempio si riempiva di fumo. E dissi: Oimè, sono perduto, poiché sono un uomo dalle labbra impure e vivo in mezzo ad un popolo dalle labbra impure. Eppure i miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserciti. Uno dei serafini volò verso di me, tenendo nella mano un carbone acceso che aveva preso con delle molle dall'altare. Egli mi toccò la bocca dicendo: Ecco, questo ha toccato le tue labbra. La tua colpa è rimossa ed il tuo peccato è espiato. Poi udii la voce del Signore che diceva: Chi manderò? Chi andrà per noi? E risposi: Eccomi, manda me. Allora disse: Va e di a questo popolo: Ascoltate bene, ma senza comprendere. Osservate bene, ma senza riconoscere. Ingrassa il cuore di questo popolo, appesantisci le sue orecchie, vela i suoi occhi, affinché non veda con i suoi occhi, né ascolti con le sue orecchie, né intenda con il suo cuore, si converta e guarisca. Io dissi: Fino a quando, Signore? Egli rispose: Fino a che le città non saranno deserte, senza abitanti, le case senza uomini, ed il paese devastato e desolato. Il Signore allontanerà la popolazione e vi sarà grande abbandono in mezzo al paese. Vi rimarrà una decima parte, ma sarà di nuovo consumata come la quercia ed il terebinto, di cui, abbattuti, resta solo il ceppo. Una semente santa è il ceppo.